Tatiana da quel posto se ne voleva andare, via da quelle sbarre, da quella prigionia assurda ed eterna, da tutta quella gente che la osservava e la fotografava, via, ad ogni costo. Non sapeva dove sarebbe andata poi, là fuori chissà cosa c'era. Lei, una tigre che avrebbe dovuto correre nella foresta, conosceva invece solo Denver, dove era nata, e da dove anni prima l'avevano portata via per rinchiuderla in quello zoo di San Francisco. Ma non importava, lei da lì doveva uscire. Ci aveva già provato una volta, era il mese di dicembre, esattamente un anno dopo l'inizio della sua reclusione. Era l'ora in cui il custode le portava come sempre da mangiare. Forse ci aveva pensato da tempo ed era arrivato il momento giusto. Dopo averlo attaccato al braccio, si era gettata fuori dalla gabbia e aveva iniziato a scappare. Il piano di fuga per quella volta era fallito, l'avevano ripresa. Ma Tatiana non si voleva arrendere ed era pronta a riprovarci. È passato un altro anno, è ancora dicembre, quel mese maledetto del suo arrivo allo zoo, quel mese in cui un anno prima aveva tentato di scappare. Forse una data da suggellare, qualcosa che va oltre la possibile comprensione. Ma Tatiana sa che quello è il momento. È il giorno di Natale e almeno per quel giorno non ci sono più visitatori pronti a scrutarla affamati di curiosità pornografica. Lo zoo sta per chiudere, c'è silenzio ed è il momento giusto. Tatiana scappa di nuovo e questa volta deve farcela. Nessun ostacolo può fermarla. Scavalca un muro alto 6 metri, attacca la prima persona che si frappone davanti alla sua via di fuga e poi un'altra e un'altra ancora, finché la sua fuga finisce, per sempre, sotto il fuoco della polizia. La cronaca racconta la notizia con dovizia di particolari drammatici, parlano di una vittima, di due feriti gravi alla testa. Ed ecco che lo show voyeuristico continua ancora. Dalla gabbia dello zoo si sposta alle pagine dei giornali per placare di nuovo con insaziabile morbosità. Quasi nessuno però racconta un particolare. Nello stomaco di Tatiana non è stata rinvenuta nemmeno una briciola di carne umana. Tatiana aveva solo fame di libertà. Quella di Tatiana è una storia particolarmente interessante perché crea una contrapposizione. Da una parte ci sono i sostenitori, diciamo, dell'ordine pubblico, che premiano, come è successo proprio con le autorità del luogo, premiano i poliziotti che sparano all'animale in fuga. Dall'altra ci sono quelli che invece commemorano Tatiana, come il caso del monumento che è stato creato apposta per ritrarre Tatiana dopo le sue diverse ribellioni, dopo l'ultima finita male, e come è il caso di quelli che tutti gli anni commemorano Tatiana con dei falò sull'oceano. Questo aspetto di commemorazione è molto interessante perché è una modalità che, anche se spesso non ci pensiamo, viene utilizzata da diversi movimenti e anche da quello antispecista. È una modalità che richiama il fatto che certi individui facenti parte di certe categorie non hanno diritto al lutto. Cioè si può essere in lutto per esempio per il proprio compagno eterosessuale, ma spesso non per quello omosessuale. Non si può essere in lutto per degli individui ai margini della società, come i tossicodipendenti o come i senza tetto, eccetera, e soprattutto, chiaramente, non si può essere in lutto per gli animali, salvo rari casi, anche qui in maniera ambigua, quando questi animali hanno lo status di pet, ovviamente, quindi il proprio cane, il proprio gatto, eccetera. Qui invece si rivendica proprio l'idea che chi può essere oggetto di lutto, chi non può esserlo, è un tema politico, cioè nella società si creano delle zone di inclusione, di esclusione nell'ambito del sociale, di ciò che può essere compreso come vita degna di lutto, ciò che non può essere compreso come tale, e che queste zone creano appunto delle zone di inclusione e esclusione. Gli animali, come categoria proprio di sfruttati, fanno parte chiaramente degli esclusi. Riportare alla ribalta, al centro, anche quando una storia di ribellione è finita male, riportare alla ribalta la loro morte, il significato della loro morte, è un modo per parlare chiaramente di una serie di temi. Infatti i militanti per la liberazione animale in America utilizzano, tra virgolette, Tatiana come simbolo per dire basta circhi, basta zoo, basta reclusione degli animali. E quindi questo è un elemento interessantissimo, e non a caso le autorità in alcuni casi negano proprio questo diritto in maniera anche esplicita. L'artista che ha fatto il monumento per ricordare Tatiana e che ha dichiarato di aver provato proprio a immedesimarsi nella sua condizione attraverso questa opera d'arte, non ha avuto i permessi per esporre questo movimento sul suolo pubblico della città. Poi il monumento è stato comunque esposto e messo alla vista di tutti in città, e questo fatto va messo proprio in parallelo, perché è simbolicamente importante, col fatto che dopo l'uccisione di Tatiana le autorità hanno premiato gli agenti che hanno sparato a Tatiana. Viene proprio da pensare a un omicidio di Stato, cioè a un riportare all'ordine costituito, ai normali posti, che in questo caso sono proprio letteralmente delle gabbie, gli individui che si ribellano, proprio come avviene nei casi di omicidi di Stato che tristemente conosciamo in Italia, Cucchi, Aldrovandi, eccetera, in cui anche solo per sapere cosa è successo veramente nel dettaglio bisogna fare delle battaglie di anni, benché poi tutti sappiamo di fatto chi è il colpevole, come in questo caso in cui ci sono delle polemiche di fatto su come è andata la morte, se sia giusto o meno sparare a una tigre che è scappata e che in fondo ha il diritto di ribellarsi. Insomma, questo tipo di dialettica che si apre assomiglia sempre di più a quella che si apre in ambito umano, e questo per certi versi è proprio un bene, perché fa emergere il fatto che abbiamo un ribelle che viene ucciso non tanto perché crea dei problemi all'ordine pubblico, ma perché contesta apertamente sulla sua, rischiando la propria pelle, la struttura di sfruttamento, di reclusione in cui è assoggettato, e quindi va ucciso. I've been looking through my mirror with somebody else's eyes, then you broke me down. Animal House. Notizie, interviste, attualità. I've been looking through my window. Al telefono con Marta Torcini. Marta è socia fondatrice dell'associazione Gabbie Vuote, un'associazione animalista, antispecista, studiosa di diritto ecclesiastico. Quindi Marta è anche un'esperta del rapporto tra religioni del mondo e mondo animale. Ho chiamato Marta per chiederle di spiegarci la lettera che lei ha inviato ai parroci fiorentini, una lettera aperta che è girata in rete e che molti di noi hanno ricevuto. La religione cristiana in genere, quindi non specificamente il cattolicesimo, ma il cristianesimo, si fonda sull'amore per gli altri viventi e quindi è sulla non violenza. Allora, se i principi sono questi, bisogna applicarli a tutti, ed è un vero controsenso che noi si parli come cristiani di non violenza e poi si ammazzino migliaia di animali, di piccoli agnellini, si strappino le loro madri per metterli arrosto e mangiarli. Insomma, è un comportamento incoerente e in contrasto con quelli che sono i principi. Prescrizioni alimentari vengono da matrici bibliche, però la Bibbia va letta, interpretata e contestualizzata. Tra l'altro le prescrizioni, diciamo questi tipi di comportamenti tradizionali, si mangia l'agnello a Pasqua, si mangia il capitone, il cappone a Natale, questi tipi di tradizioni sono pari pari prese o da un'interpretazione letterale della Bibbia, o spesso si tratta di tradizioni che sono prese dal paganesimo. Che reazioni hai avuto? L'anno scorso ho fatto qualcosa di simile, non come Gabbie Vuote, perché è un'associazione che è nata da poco, e le reazioni che ho avuto non sono state certamente favorevoli. Insomma, noi siamo di fronte a un comportamento tradizionale in cui si identifica l'agnello con Gesù, dimenticandoci che il sacrificio di Gesù per i cattolici è riproposto nella messa, per gli altri è nella, diciamo, nel rito della Santa Cena o della Comunione, è comunque un ricordo di quello che è avvenuto, ma l'uccisione dell'agnello per mangiarcelo non ha nessun significato, nessun senso religioso. Semmai, se ha un significato, è un atto di violenza. Ci arrivò una risposta sulle nostre mail, un parroco che irrideva a questa cosa considerandola di scarsa importanza. Il ragionamento che sta dietro questo atteggiamento è questo: senza rendersi conto che ogni forma di violenza produce violenza, è legata ad altra violenza, come ogni forma di discriminazione è legata alle altre forme di discriminazione. La discriminazione verso gli animali è un po' la madre, la matrice di tutte le discriminazioni. Perché tu cominci a considerarti, io sono essere umano e quello è animale, poi però sviluppi il discorso e dici io sono uomo e quello è donna, io sono cittadino italiano e quello è straniero, io sono bianco e tu sei nero, e non c'è limite a questa scala. L'unico modo per fermare quella scala, questo continuo dividere, è accogliere tutti. E questo poi, e te lo dico da credente, secondo me è la matrice del cristianesimo. È per questo che a me stupisce molto questo atteggiamento dei parroci o comunque dei credenti cristiani che accantonano questo discorso. Conto della serata del 19 marzo scorso, quando insieme con il collettivo Intersezioni abbiamo organizzato un incontro con Patrice Jones, un'attivista poliedrica che ha ben delineato una linea di pensiero e d'azione che si concentra appunto sulle intersezioni fra lotte diverse, lotte in apparenza separate, ma che hanno un forte nesso che le lega, e cioè un'idea di liberazione dai condizionamenti e dalle costrizioni che nella società presente generano varie forme di oppressione, di esclusione, di discriminazione. Patrice proviene dal movimento LGBT e ha esordito dicendo che il suo primo atto di consapevolezza e di militanza è stato il coming out sulla sua condizione di lesbica. Tuttora è considerata prevalentemente una ecofemminista, ma potremmo anche dire che è un antirazzista, un antispecista, un attivista che conduce una serrata critica del capitalismo. Potremmo alla fine usare una parola che oggi suona desueta, ma che andrebbe riscoperta e rimessa a nuovo, aggiornandola al tempo presente, naturalmente. Potremmo cioè dire che Patrice Jones è una rivoluzionaria. Le idee forti del suo pensiero sono probabilmente tre. La prima è che le forme di esclusione e di oppressione, in apparenza separate, in realtà si rafforzano l'una con l'altra. Più c'è razzismo, più cresce l'omofobia. Quanto più il sessismo è accettato socialmente, tanto maggiore sarà l'esclusione degli animali dalla considerazione morale. E così via. La seconda idea forte è che ogni lotta, ogni iniziativa, ogni pensiero, ogni azione va collocata in un contesto di realtà che ha risvolti sociali, economici e ecologici. Sembra un'ovvietà, ma non lo è, perché implica, per fare un esempio, che la lotta contro la caccia in una determinata regione deve essere condotta considerando l'interazione fra la caccia e gli ecosistemi di quella regione. E naturalmente che va considerato in che modo questa interazione cambierebbe se la caccia fosse davvero abolita. Gli effetti che ci sarebbero per la fauna, in che modo sarebbe necessario intervenire, che cosa cambierebbe nell'organizzazione del territorio, nel suo status giuridico e così via. Lo stesso vale per gli aspetti economici, legati in questo caso al peso economico della caccia. Quanto conta il mercato di fucili, munizioni e altri accessori? In che modo risponderemo a chi facesse osservare l'impatto negativo per l'economia locale di una chiusura dell'attività venatoria? Potremmo moltiplicare gli esempi. Non sempre nell'ambito dell'attivismo femminista, animalista, antirazzista, eccetera, gli elementi di sistema sono considerati nel modo dovuto. E Patrice ha insistito in modo particolare sulla questione ecologica, che in effetti è la questione politica del nostro tempo, visto che viviamo in un pianeta che rischia l'autodistruzione a causa del sistema industriale e di consumi che si è impiantato nei cosiddetti paesi occidentali, per poi radicarsi, però, questa è la storia degli ultimi 20-30 anni, anche in aree popolatissime dell'Asia, cioè India e Cina, con implicazioni per la sostenibilità degli ecosistemi gravissime. Il terzo elemento dell'impostazione seguita da Patrice Jones è l'idea che lottare contro una qualsiasi delle forme di oppressione prevalenti, contro le donne, contro gli animali, contro certi popoli o gruppi di persone, rischia di essere uno sforzo vano se non si riesce a stabilire forme di connessione fra le varie lotte. Abbiamo di fronte un sistema sociale, economico, politico, gestito da un potere oligarchico che lavora secondo una precisa logica di dominio, così la chiama Patrice Jones, la quale agisce in modo da dividere e contrapporre le singole persone fra loro e i gruppi di persone gli uni contro gli altri. Potremmo dire che si tratta dell'applicazione del vecchio motto divide et impera, ma c'è qualcosa di più nella visione di Patrice Jones, e cioè il fatto che all'origine di questa logica di dominio c'è l'oppressione dei corpi e dei desideri e la formulazione di un'ideologia che indirizza il pensiero su logiche binarie, la presunta contrapposizione uomo-donna, umani-animali, cultura-natura, anima-corpo, ragione-emozione. Questi dualismi sono fittizi e servono appunto a dividere e contrapporre. Perciò, aggiungo io, sono preziose e potenzialmente rivoluzionarie proprio le esperienze di chi sfugge alle classificazioni binarie o vi si ribella in modo assoluto. Il movimento LGBT e il mondo dell'intersessualità, le minoranze culturali nazionali impropriamente definite etniche, i ribelli politici o del pensiero, gli stessi animali. Il punto debole di tutti loro è proprio nella difficoltà di comprendere quanto sia importante avere un terreno d'azione comune. Si tratta allora di mettere a fuoco qual è l'avversario, di capire che una lotta di liberazione sessuale deve prendere di mira le strutture portanti della società. Non può prescindere, cioè, da una critica del capitalismo consumista e finanziario o dalla considerazione che occorre concepirsi come parte di un percorso di radicale cambiamento delle strutture sociali e di salvezza per l'ecosistema minacciato. Allo stesso modo, chi lotta per la giustizia verso gli animali non può ignorare in quale contesto l'oppressione animale è maturata e si è consolidata e quale ideologia la sostiene, la superiorità della specie umana e il suo diritto a disporre delle specie definite inferiori, un principio che è stato ed è alla base di discriminazioni e massacri anche all'interno dell'umanità. Da Patrice Jones arriva dunque un messaggio forte. Dobbiamo scardinare il sistema mettendo insieme progetti di lotta e di cambiamento che mettono in discussione, simultaneamente, più forme di oppressione. Patrice ha fatto l'esempio di una campagna per impedire l'insediamento in una certa zona della Polonia di alcuni allevamenti di visoni. Insieme con gli animalisti hanno lottato gruppi ambientalisti che hanno mostrato l'impatto negativo che gli allevamenti avrebbero avuto, i sindacati che hanno studiato le condizioni di lavoro in allevamenti e macelli e che hanno chiaramente indicato la produzione di pellicce come inutile e superflua. Ne è nato insomma un movimento popolare vasto, articolato, e alla fine gli allevamenti non si sono fatti. In conclusione, ha detto Patrice, dobbiamo liberare il desiderio di essere connessi con i nostri ecosistemi e con gli altri viventi, umani e non umani. La trascrizione della conferenza di Patrice Jones è sul nostro sito restiamoanimali.it. Even when the darkest clouds are in the sky, you mustn't sigh and you must. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Eccoci arrivati al terzo appuntamento col nostro menù di Pasqua in versione vegan. Lascio le mie disquisizioni sulla raccapricciante abitudine di bandire la tavola di questa festa con un cucciolo alla prossima puntata. Intanto addolcisco la pillola con un dessert a tema, cioè il coniglietto di frolla con crema di latte di mandorle al cioccolato. Gli ingredienti sono molti, perché vi darò tre ricette in una, ma non preoccupatevi se non riuscite a scrivere tutto, troverete la ricetta sul blog di Restiamo Animali come al solito. Per 8 coniglietti gli ingredienti sono, prima di tutto per preparare un burro di soia occorrono 100 g di olio di semi di girasole e 50 g di latte di soia, qualche goccia di succo di limone. Mentre per la pasta frolla 300 g di farina, 50 g di fecola di patate, 100 g di zucchero di canna, 150 g di burro di soia, 90 ml di latte vegetale o acqua, scorza di limone o arancio grattugiato, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, della vaniglia e un pizzico di sale. Per la crema di mandorle, 100 g di mandorle non pelate, 1 litro di acqua, 150 g di farina di riso, 200 g di zucchero di canna, un cucchiaino di curcuma in polvere, della vaniglia e 100 g di cioccolato fondente. Allora, iniziamo preparando il burro di soia, semplicemente versando nel bicchiere del frullatore a immersione il latte di soia ben freddo e l'olio. Aggiungete qualche goccia di limone e fate frullare per un paio di minuti. Otterrete una salsa densa simile al burro ammorbidito. Fatelo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Dopodiché in una terrina unite tutti gli ingredienti della pasta frolla, escluso la farina e la fecola. Impastate tutto e quando sarà ben amalgamato, utilizzando il burro di soia fatto in casa non occorre lavorare molto, unite la farina e la fecola. Lavoratelo rapidamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. È importante non lavorare troppo la farina affinché non si rompa il glutine, questo darà maggior friabilità e croccantezza alla frolla, in caso contrario tenderà a diventare elastica. Adesso formate un mattoncino con la pasta frolla, spolverizzatelo di farina e lasciatelo riposare in frigorifero almeno per un'ora prima di utilizzarlo. Intanto prepariamo la crema. Mettete le mandorle in un litro di acqua calda e frullate bene al mixer fino a quando la frutta secca, le mandorle, saranno diventate più fini possibili. Filtrate il latte di mandorle e conservate la granella per altre occasioni, oppure, se vi piace, potete unirle alla crema al cioccolato una volta terminata. Stemperate la farina di riso nel latte di mandorle, aggiungendolo un po' alla volta per non formare grumi. Unite la vaniglia, lo zucchero e la curcuma e mettete sul fuoco molto basso, mescolando con cura. Lasciate sul fuoco fino a quando la crema non avrà raggiunto la giusta densità. A questo punto togliete dal fuoco ed unite il cioccolato fondente che avrete già tritato. Lasciate sciogliere e mescolate bene con la frusta per amalgamare il tutto. A parte ritagliate un foglio di cartone e la sagoma di un coniglietto. Stendete la pasta frolla e con l'aiuto di un coltellino appuntito ricavate delle figure di coniglio che sistemerete in una teglia su di un foglio di carta forno. Riempite i coniglietti con la crema al cioccolato lasciando un mezzo centimetro di bordo. Con l'aiuto di un pennellino inumidite il bordo con del latte di soia. Coprite ogni coniglietto con un altro strato di frolla, sempre fatto a forma di coniglietto, e con una leggera pressione delle dita sigillate i bordi, in modo che durante la cottura la crema non fuoriesca. Fate cuocere in forno a 180 gradi per circa 25 minuti. Lasciatelo raffreddare e cospargete con zucchero a velo. Se preferite invece della forma del coniglietto potete usare quella di una colomba oppure liberate la fantasia e quella che più vi piace. Con questo si conclude il nostro menù vegan di Pasqua. Buon appetito, buona sperimentazione, alla prossima. Se vi foste persi ingredienti, procedimento, la ricetta intera, non vi preoccupate perché potete ritrovare tutto sul nostro blog che è restiamoanimali.wordpress.com. Quindi buon appetito e buona sperimentazione in questa cucina senza crudeltà. E aspetto i vostri feedback, se avete domande, curiosità, foto anche delle vostre prestazioni culinarie, basta mandare un'email a restiamoanimali@controradio.it. Vi aspetto domenica prossima, l'appuntamento è sempre su Controradio nella rubrica Il Pasto Gentile. Sostiene Vallauri. Oggi con il professor Luigi Lombardi Vallauri vogliamo commentare una notizia recente, e cioè l'emendamento votato dal Consiglio Comunale di Firenze che ha permesso di ripristinare la festa del grillo, un'antica festa che si svolge alle Cascine e che consiste nel catturare dei grilli nei prati e metterli dentro delle piccole gabbie. Nel corso del tempo questa usanza si è trasformata e è diventato un commercio di grilli rinchiuse in gabbie. Nel 1999 questa festa fu cambiata radicalmente, fu proibito di usare grilli vivi per la loro salvaguardia evidentemente, e quindi la festa si trasformò e un po' decadde perché i grilli finti non piacevano più molto. Ora c'è questo improvviso ritorno a questa pratica che definire poco rispettosa rispetto alla vita dei grilli è veramente il minimo. Professor Luigi Lombardi Vallauri, cosa pensa di questa notizia, di questo cambiamento votato in Consiglio Comunale? Devo un po' improvvisare perché sinceramente non avevo pensato molto alla festa del grillo, ma dirò forse quattro cose. La prima è che le tradizioni sono carine, uniscono sincronicamente, ma uniscono anche al passato, ma non tutte le tradizioni sono buone, ci sono tradizioni pessime. Per esempio Thomas Mann ricorda che nell'antica mezzaluna fertile era buona tradizione seppellire tutta la corte, i ministri, i servi, quando moriva il re, e a un certo punto non lo si è più fatto, insomma, anche se era un'antica tradizione. Quindi non tutte le tradizioni in quanto tradizioni sono necessariamente una buona cosa. Secondo, i grilli non sono fatti per vivere in gabbia. Il loro telos, quello che li costituisce, direbbe Aristotele, è probabilmente saltare nell'erba, accoppiarsi. Non conosco gli accoppiamenti dei grilli, ma certamente riescono a fare sesso in qualche modo, insomma divertirsi e morire. Metterli in una gabbia non corrisponde alla loro natura. Allora ci si può chiedere come mai degli animi sensibili si divertano tanto a tenerli prigionieri in gabbia. Il mio terzo punto: bisogna mantenere il senso delle proporzioni, e ci sono animi appunto molto sensibili. Una mia amica della religione Baha'i mi ha detto: ma ti rendi conto, hanno ripristinato la festa del grillo? E io gli ho detto: sì, ma perché ti stupisci tanto della festa del grillo e non dei milioni di maiali negli allevamenti intensivi? E lei ha detto: beh sì, certo, hai ragione, molti di noi si stupiscono del maltrattamento di un cagnolino, dell'abbandono di un cagnolino, del taglio delle orecchie di cani da concorso, e quasi non si accorgono del macigno della macellazione. Quindi, con buona pace dei grilli, direi dobbiamo concentrarci piuttosto sulle cose macroscopiche. Però bisogna anche dire che forse proprio delle cose così minute come l'attenzione ai grilli possono mettere in luce la mostruosità delle cose enormi. Quindi ben venga la critica alla festa del grillo. E il mio quarto punto è questo: boicottiamola questa festa, cioè non compriamo i grilli in gabbia, non li catturiamo, e se proprio vogliamo arrivare a un compromesso, direi: compriamo i grilli e liberiamoli. Per esempio, dalle parti mie, vicino alla Valmaira in Piemonte, ho assistito quest'anno a una festa di liberazione delle civette. Sono carinissime, piccole, ne hanno liberato una quarantina. Io ho chiesto: ma come le avete avute in mano tutte queste civettine? Dice: beh, le abbiamo allevate proprio per poi liberarle. Le hanno liberate di notte in un bel posto. Allora, boicottare e liberare. Perché non inventiamo, proponiamolo al Consiglio Comunale, la festa della cattura e liberazione dei grilli? Sarebbe un onorevole compromesso. La Società Vegetariana organizza 3 corsi teorico-pratici di cucina vegan, uno a Viareggio e 2 a Genova. Quello di Viareggio si svilupperà in 4 incontri, 17-18 maggio e 7-8 giugno, presso il Centro Polisportivo, e verrà svolto dalla dottoressa Stefania Bambini, biologa nutrizionista e socia della Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana e della Società Italiana di Nutrizione Vegetariana, e da Francesco Castorina, divulgatore scientifico di alimentazione a base vegetale, cuoco e presidente di Società Vegetariana. Per tutti i dettagli potete consultare il sito www.societavegetariana.org. E adesso una serie di brutte notizie legate agli effetti collaterali della prigionia e della schiavitù animale. Cominciamo con il laboratorio Negri Sud di Santa Maria in Baro. Il laboratorio chiude e circa un migliaio di piccoli topi bianchi, fatti nascere, crescere e usati per fare su di loro esperimenti tumorali, vengono uccisi col gas perché non ci sono più soldi per mantenerli. È successo appunto nelle scorse ore al centro di ricerca Negri Sud, e a scoprirlo e denunciarlo in un articolo è la web TV Abruzzo Live TV, Una vicenda, scrive Abruzzo Live, che ha sconvolto anche i ricercatori dell'istituto, che versa in una gravissima crisi economico-finanziaria, tanto che sono state paventate decine di licenziamenti. A chiudere è stato il laboratorio del metabolismo lipidico e tumorale di Antonio Moschetta, che si è trasferito a Bari. Il professore, rientrato nei giorni scorsi in Abruzzo, avrebbe portato con sé in Puglia circa 870 topi usati per lo studio dei tumori. Un altro migliaio di animaletti è stato fatto rimanere nello stabulario del Negri, situato nei sotterranei degli edifici, che sono sede della fondazione, e dopo un po' è stato subito fatto partire l'ordine di ammazzare le bestiole, soffocate col gas nelle loro gabbie. E ancora, è allarme cavie. L'associazione www.aaecavie.it lancia un appello disperato. Nella sola giornata di ieri, scrive l'associazione, abbiamo ricevuto richieste di accoglienza immediata per oltre 15 cavie, le ultime due trovate abbandonate in un giardino e messe in un secchio. Non abbiamo più posto per le segnalazioni che restano, pur gravissime, senza nessuna risposta. Purtroppo non ci risulta nessuna realtà in tutto il territorio nazionale che si adoperi per questi animali, se non nei casi di provenienza della vivisezione. Si tratta quindi di cavie tenute in casa e non utilizzate per scopi, fra virgolette, scientifici. Preghiamo, dice ancora l'associazione, supplichiamo tutti voi di unirvi a noi per darci aiuto e condividere gli appelli e smorzare qualunque canale di cessione e vendita privata che possa sovraccaricare questa piaga ormai ingestibile. Occorre bloccare tutte le cucciolate e fare una grossa campagna di sensibilizzazione contro la vendita, la cessazione e la riproduzione sconsiderata che sta mietendo centinaia di vittime sotto i nostri occhi. Ultimi fra gli ultimi, le cavie, e già il nome a me fa orrore, sono animali poco amati, sono poco apprezzati, ma perché sono poco conosciuti. Si pensa che siano animali sporchi, che siano animali selvatici, in realtà hanno un'etologia complessissima, riescono a intrecciare rapporti anche molto solidi, sia con i loro simili che con i compagni umani. I pochi volontari dell'associazione sono sommersi di animali, anche decine a casa di una sola persona, con evidente dispendio di risorse personali ed economiche. Per 1000 volontari che aiutano gli animali, soltanto uno si occupa di esotici. Così non possiamo andare avanti, dice ancora l'associazione. Se ognuno di questi animali producesse un lamento, le urla di disperazione sarebbero insopportabili. Noi li sentiamo e voi, invito ancora a andare sul sito www.aaecavie.it per vedere cosa è più importante fare e come farlo. Come buona notizia finale vogliamo ricordare la nuova clamorosa sconfitta per il delfinario di Rimini. La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo dei delfini della struttura, posta sotto sequestro lo scorso mese di agosto. Il ricorso, presentato dalla società titolare del delfinario, è stato rigettato e dunque i delfini restano definitivamente sotto sequestro. A partire da sabato 29 marzo, LAV e Mare Vivo hanno lanciato una petizione. Per info potete andare sul sito www.lav.it oppure www.marevivo.it, con cui chiedono al governo e al Parlamento una nuova legge che vieti l'importazione di delfini e di altri cetacei a fini di spettacolo. Questa nuova autorevole pronuncia dell'autorità giudiziaria conferma ancora una volta il sequestro preventivo degli animali, stabilendo che i delfini non debbano tornare al delfinario e che le informazioni raccolte dalla magistratura e dalla polizia giudiziaria sono state sufficienti a prefigurare la necessità del sequestro e il reato di maltrattamento. Il sindaco di Rimini, che ad oggi non ha neanche risposto alla richiesta di un incontro delle associazioni, prenda infine atto della conferma dell'ipotesi di reato e del sequestro e abbandoni il progetto di costruire un nuovo delfinario sul territorio di Rimini. Chiediamo che non si costruisca una nuova prigione per i delfini e che non si spendano milioni di euro di cittadini, come è avvenuto a Genova, dove sono stati spesi milioni di euro di fondi pubblici per la vasca dei delfini, ora data in gestione all'acquario di Genova. Anche il sindaco di Rimini prende atto che il 68% degli italiani vorrebbe proibire i delfinari e che per l'81% di loro i delfini sono più felici in natura. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali.